GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Presentato al Centro Balducci di Giuliano il report sulle persone fuori accoglienza dalla rete DASI. Sono numerosi i richiedenti asilo da tempo presenti in alcuni spazi dell'ex caserma Cavazzerani, ma non registrati fra le persone accolte. Nuove regole per i concorsi di abilitazione degli insegnanti nelle scuole medie e superiori. Intanto, in attesa del via libera della Camera per il disegno di legge del ministro Valditara sulle conseguenze del 5 in condotta, le bocciature sono eventi sempre più rari e di conseguenza anche le controversie legali fra genitori e scuola risultano in forte calo. Firmato in prefettura Udine un accordo per la gestione della sicurezza in una delle tre REMS previste in regione, quella di Santo Osvaldo. Al momento sono due i posti attivi previsti nella residenza. Il comitato Nuovo Via segnala i potenziali rischi di interferenza della prevista cabinovia a Trieste con la linea ferroviaria, anche a causa del rischio geologico del sito dove è previsto uno dei piloni. I promotori del comitato vogliono le fasi del processo di valutazione del progetto. Una professoressa friulana che da anni insegna in Francia ha creato un ponte fra il suo liceo francese e l'artistico Sello di Udine. Costruire insieme un treno decorativo di legno, un'opera artigianale che rappresenta una grande opportunità di scambio culturale per gli studenti. Il gol del friulano Cristante beffa l'Udinese, sconfitta in pieno recupero dalla Roma per 1-2 nella prosecuzione della gara che era stata sospesa per il malore in campo di Indicà, quando le squadre erano sull'1-1. Esordio amaro per il neo allenatore Fabio Cannavaro, bianconeri in piena zona retrocessione. Le 12:31 minuti e 50 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Verz e Lara Zani in studio per condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 26 aprile. Invisibili ed escluse è il titolo del report sulle persone fuori accoglienza presentato poco fa al Centro Ernesto Balducci di Giuliano dalla rete DASI, Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di richiedenti asilo da tempo presenti in alcuni spazi dell'ex caserma Cavazzerani ma non registrati tra le persone accolte. E questo è il quadro che ne emerso. Decine di persone ammassate in un'area dismessa, pericolante, senza uscite di sicurezza dell'ex caserma Cavazzerani di Udine, chiamata dalle persone migranti moschea. È qui che quotidianamente da mesi dormono almeno 150 persone escluse dai canali ufficiali dell'accoglienza. Le immagini inedite scattate dagli stessi richiedenti asilo fanno parte del report presentato al Centro Balducci di Giuliano dalla rete DASI FVG, che raccoglie diverse associazioni che si occupano di immigrazione e gestione dei richiedenti asilo. Operatori e attivisti per 4 mesi non stop da dicembre hanno raccolto le testimonianze di migranti fuori dalla Cavazzerani, dove è emersa la grave precarietà all'interno della caserma, che ufficialmente accoglie 550 persone, ma di fatto ne risiedono almeno 700, cioè 150 in più. Si tratta di persone già fotosegnalate dalla questura, ma che il sistema d'accoglienza non ha trovato loro un posto. Siamo con Laura Pagliari della rete DASI. Le chiedo, lei con queste persone ha parlato per mesi, che cosa raccontano? I ragazzi raccontano della loro situazione di precarietà, che li coinvolge su ogni aspetto. Mancano coperte, mancano vestiti, questo teniamo presente, che mancano in pieno inverno. Abbiamo cominciato a dicembre a interfacciarsi con loro. Abbiamo cercato in minima parte a provvedere con una distribuzione settimanale, ma stiamo parlando di 150 persone a cui manca ogni tipo di supporto. Anche cibo, perché non essendo registrati, non facendo parte dell'accoglienza vera e propria, il cibo per loro non c'è. Certo, il cibo, quello che ci raccontano i ragazzi è che il cibo non viene distribuito regolarmente, ma d'altronde sono persone fuori accoglienza e quindi come si fa a distribuire per cibo a persone che non esistono? Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. In questo senso il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha dichiarato poco fa che è stata trovata una struttura che accoglierà queste persone che attualmente non trovano una sistemazione e a brevissimo, ha detto il prefetto, sarà comunicata ufficialmente il luogo scelto. Parliamo ora di scuola con due servizi. Il primo riguarda le regole per l'abilitazione degli insegnanti nelle scuole medie e superiori. Sentiamo quali sono le novità per il prossimo concorso in vista del nuovo anno scolastico. L'ennesima novità per l'esercito dei precari della scuola, già alle prese con la seconda parte del concorso pubblico per i professori non ancora in ruolo, cambia il percorso di abilitazione per diventare insegnanti, o meglio, dopo un'attesa di quasi 2 anni parte il nuovo percorso, che non dà garanzia del posto, ma sarà necessario per ottenere la docenza sia dalla prima fascia delle graduatorie per le supplenze, sia per poter accedere al ruolo per i vincitori dei concorsi. In attuazione del PNRR è stato introdotto l'obbligo di possedere 60 credenziali crediti universitari abbinati alle lauree per abilitarsi in una classe di concorso per poi tentare la strada della cattedra, un percorso in collaborazione con gli Atenei che rischia di penalizzare i più giovani. Vediamo perché. Il decreto ministeriale attuativo appena varato autorizza a livello nazionale 51.753 posti, 643 dei quali in Friuli Venezia Giulia. Ogni aspirante partecipante può presentare una sola domanda per i percorsi di formazione riferiti alla stessa classe di concorso e in un'unica istituzione accademica. In caso il numero delle domande superi i posti disponibili, i criteri di ammissione a questi percorsi premiano chi ha più esperienza. Una quota è riservata a chi passa a concorso, un'altra, fino al 45%, a chi ha almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5, quindi una larga maggioranza dei precari. Contano anche altri titoli come master, dottorati, seconde lauree, certificazioni. I corsi saranno tendenzialmente da 60 crediti formativi, quindi di un anno, ma esisteranno anche da 36 e da 30, a seconda del percorso formativo e lavorativo attuato in precedenza dal docente. Per poter accedere alla prova finale è richiesta la partecipazione ad almeno il 70% delle attività formative previste per ciascun modulo del percorso, mentre il costo, interamente a carico dei precari, sarà di massimo 2.500 euro. I due Atenei regionali, anche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, si sono spartiti i corsi, a parte l'insegnamento di italiano e storia e geografia e di matematica e scienza alle medie, i cui percorsi abilitativi saranno sia a Trieste che a Udine. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre per rimanere nel campo della scuola, torniamo ora a parlare della bocciatura se si riceve in pagella un 5 in condotta. Il disegno di legge del ministro Valditara in questo senso, dopo l'approvazione del Senato, attende ora il via libera della Camera. Oggi le bocciature sono eventi sempre più rari e di conseguenza anche le controversie legali tra genitori e scuola sono in forte calo. Le cause amministrative che al TAR vedono i genitori contestare le valutazioni fatte dalla scuola sui propri figli e dunque soprattutto le bocciature sono la punta dell'iceberg di un fenomeno di questi tempi, la litigiosità tra le famiglie e l'istituzione. Va detto però che in Friuli Venezia Giulia se l'anno scorso sono state 3, nel 2014 erano 19. Il trend dunque è in calo, ma non perché madri e padri si sono calmati, ma perché la bocciatura da qualche anno a questa parte è diventata quasi impossibile. C'è stato un mutamento nell'ordinamento a seguito di una riforma del 2017 che ha reso la bocciatura nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado un evento assolutamente eccezionale e questo poi è il frutto anche di un'interpretazione molto restrittiva che il Consiglio di Stato ha dato della nuova normativa. Cosa si intende per evento eccezionale e perché? Beh, diciamo che bisogna che la scuola dimostri come la bocciatura fosse la misura assolutamente necessaria perché il percorso non poteva essere proseguito utilmente nell'anno successivo. E in ciò poi va anche aggiunto che, secondo il Consiglio di Stato, la valutazione negativa deve avere una durata di almeno 2 anni. In questo modo, in prima media, diciamo, è materialmente impossibile che regga una bocciatura, se ne può parlare soltanto in quella che è oggi il secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Paradossalmente sono i genitori qualche volta a chiedere la bocciatura. Sì, ecco, siamo arrivati quasi al paradosso dove ci sono dei casi in cui, anzi è più probabile, più frequente che siano i genitori a dolersi della promozione piuttosto che ci siano le scuole che boccino i minori. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Firmato in prefettura Udine un accordo per la gestione della sicurezza in una delle 3 REMS previste in regione, quella di Santo Osvaldo. È a Santo Osvaldo una delle 3 REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza previste in Friuli Venezia Giulia. Ed oggi in prefettura Udine è stato sottoscritto un accordo tra prefettura e regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna della residenza. Con il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, al momento sono 2 i posti operativi nella residenza, posti che a breve raddoppieranno. Denis Caporale, direttore generale, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Sono un po' di anni che appunto la REMS è presente presso la sede del SVC in via Pozzuolo, naturalmente i 2 posti dentro in questo momento non sono neanche sufficienti, quindi stiamo lavorando per l'adeguamento di altri 2 posti che dovrebbero naturalmente assicurare poi per il territorio di SVC un numero corretto rispetto alla casistica che in questo momento ci troviamo a gestire. Le REMS sono luoghi sensibili dove vengono inviati soggetti che scontano una pena detentiva alternativa al carcere, quindi la sicurezza deve essere massima, ha detto il prefetto di Udine. Vetri antiproiettili, videosorveglianza interna ed esterna ed altro per garantire la sicurezza degli operatori ma anche dei cittadini. Domenico Lione, prefetto di Udine. Abbiamo inserito la REMS negli obiettivi di controllo coordinati del territorio, e che vuol dire che la struttura è soggetta a passaggi quotidiani da parte delle volanti presenti sul territorio. Poi c'è un collegamento punto a punto che consente alla struttura di essere collegata con le sale operative delle forze di polizia, bypassando quindi l'112. Poi il terzo elemento c'è la videosorveglianza sia perimetrale sia interna. Quindi stiamo cercando appunto di creare un sistema che renda sempre più sicuro questo tipo di struttura. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, in seguito al ribaltamento di un muletto. L'incidente è avvenuto questa mattina alla IFAB di Palmanova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine. 534 persone identificate, 11 esercizi commerciali, 93 veicoli controllati, con 3 violazioni al codice della strada contestate. Sono il bilancio di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati a Gorizia il 24 aprile scorso e finalizzati alla prevenzione e al contrasto alla criminalità diffusa, all'immigrazione irregolare, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, oltre alle verifiche amministrative ai locali soggetti a licenze di polizia. L'attività si è sviluppata principalmente nel capoluogo isontino, interessando oltre al centro cittadino la stazione ferroviaria, i parchi e le aree verdi, le arterie maggiormente trafficate in entrata e in uscita da Gorizia e le zone nelle quali si possono evidenziare potenziali rischi. 100 gli operatori coordinati dalla questura appartenenti alle diverse articolazioni della Polizia di Stato. Controllati 8 appartamenti per verificare la posizione amministrativa dei cittadini stranieri. Delle 17 persone identificate, 6 sono risultate non in regola con le dichiarazioni di ospitalità. Anche nel mandamento monfalconese sono stati effettuati 3 controlli ad altrettanti esercizi pubblici, nel corso dei quali sono state identificate 31 persone. Il comitato No Ovovia ha segnalato a Rete Ferroviaria Italiana e ANSFISA i potenziali rischi di interferenza della prevista cabinovia a Trieste con la linea ferroviaria, anche a causa del rischio geologico del sito dove è previsto uno dei piloni. In una conferenza stampa i promotori del comitato hanno chiesto di chiarire il ruolo svolto da questi due enti nel processo di valutazione dell'intero progetto. Il comitato No Ovovia scrive ad RFI e ad ANSFISA, l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria. Il comitato dubita che i due organismi siano stati coinvolti nella conferenza dei servizi attivata dal comune per la realizzazione della cabinovia. Perciò si è rivolto direttamente a loro, esponendo i problemi relativi alla circolazione ferroviaria in conseguenza dell'eventuale costruzione dell'impianto. In primo luogo, rilevano, la linea della cabinovia in diversi punti procede parallela alla ferrovia, in alcuni casi entrando all'interno della fascia di rispetto di 30 metri stabilita dalla normativa, e in due punti la interseca, nei pressi del Faro della Vittoria e più a monte, fra la passeggiata napoleonica e la Sissa. Nel caso di blocco della cabinovia, ad esempio per aumento della ventosità, in queste aree risulterebbe complicatissimo, sostengono, raggiungere e recuperare le persone a bordo degli ovetti, per non parlare delle problematiche in caso di incidente. In queste ipotesi andrebbe fermata la circolazione ferroviaria molto intensa sulla linea Trieste-Monfalcone. Sollevati poi problemi geologici, uno dei primi piloni nella tratta in salita verrebbe realizzato nei pressi del faro esattamente su una faglia, cioè dove il materiale sottostante è fratturato, offrendo una base poco sicura per le fondamenta del sostegno. Per di più, massi potrebbero rotolare, anche in conseguenza della nuova opera, verso una galleria di protezione ferroviaria o direttamente sui binari. Da qui la sollecitazione di un parere direttamente ai due organi, che però, dopo una ventina di giorni, non hanno ancora fornito una risposta. Trieste, Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 12.44 minuti diamo un'occhiata al meteo con le previsioni. Il cielo è da poco nuvoloso variabile, queste le temperature registrate poco fa. A Trieste, Udine e Pordenone 12,5 gradi, a Gorizia 13,5 gradi, a Tolmezzo 11 gradi, a Tarvisio 8, a Fondi di Sopra 6,5 gradi, a Piancavallo 3 gradi, a Sappada 2,5 gradi. Sul Monte Lussari -2,5 gradi, sul Monte Zoncolan -2 gradi. Passando la costa, a Grado e Lignano si registrano 12 gradi. Ma cosa ci aspetta per le condizioni meteo in questo fine settimana? Lo abbiamo chiesto al previsore dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Marcellino Salvador. Per quanto riguarda il fine settimana, ancora correnti umide nella giornata di sabato determineranno tempo incerto e quindi variabilità sulla regione, probabilmente con più nubi in genere comunque sulla zona prealpina in Carnia e la possibilità di qualche pioggia sparsa, forse anche di qualche rovescio. Ci sarà comunque anche qualche schiarita, specie lungo la costa. Invece da domenica si affermano correnti più meridionali, più da sud e anche più secche, e questo farà sì che da domenica il tempo migliori e in particolare durante il giorno e poi soprattutto lunedì e martedì avremo tempo bello, stabile, soleggiato. Lunedì e martedì si arriverà anche a temperature di 26-27 gradi in pianura e quindi questa fase fredda sarà del tutto conclusa. Le temperature di domenica, le massime saranno intorno ai 22-23 gradi in pianura sui venti lungo la costa, perché sulla costa il raffreddamento dato in questi giorni anche dalla bora fa sì che il mare trattenga un po' di freddo e quindi ci restituisca con la brezza temperature più basse rispetto alle zone interne. Però diciamo da domenica c'è un deciso miglioramento che avrà il suo apice appunto tra lunedì e martedì. Il ritorno dei controlli alle frontiere, di cui è stato recentemente annunciato il prolungamento, sarà uno dei temi al centro del tradizionale incontro transfrontaliero dei sindacati italiani e sloveni, che si tiene ogni anno in prossimità del 1° maggio, su iniziativa del Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia. L'appuntamento è fissato per lunedì 29 aprile alle 10.30 al valico della Casa Rossa Gorizia. L'iniziativa assume particolare valore poiché si svolge a 20 anni dalla grande manifestazione del 1° maggio 2004, che vide in quell'occasione CGIL, CISL, UIL nazionali e i sindacati sloveni festeggiare l'entrata della vicina Repubblica e di altri 9 paesi nell'Unione Europea. Da oggi a domenica 28 aprile Contea Profumi di Cultura Europea racconterà, tra spettacoli, itinerari culturali, rievocazioni, incontri ed enogastronomia, gli oltre 1000 anni di storia di Gorizia. L'inaugurazione alle 17 ai giardini pubblici. Nello spazio antistante sarà posizionato un tendone che ospiterà conferenze e incontri, affiancato da altri stand nei quali si potranno assaporare le specialità enogastronomiche del territorio, dalle 17 alle 21 di oggi e dalle 10 alle 21 di domani e di domenica. La cerimonia di apertura sarà accompagnata dalle note della banda transfrontaliera Gong alla sua prima esibizione ufficiale. Seguirà alle 18 l'atteso incontro Dalla Grande Contea alla Terza Guerra Mondiale, Go 2025 controcorrente, con Roberto Kovacs e Georg Mayer intervistati dal sindaco di Gorizia. Alle 19 invece si parlerà di Le lingue del goriziano attraverso gli scritti di Giovanni Maria Marusig, incontro a cura di Matiej Tratnik. Alle 20 i gruppi folkloristici locali proporranno un saluto, poi la prima giornata si concluderà alle 20.30 a Palazzo De Grazia con lo spettacolo in prima assoluta dal titolo La soffitta di Piazza Grande. Una professoressa friulana che da anni insegna in Francia ha creato un ponte fra il suo liceo francese e l'artistico Sello di Udine, costruire insieme un treno decorativo di legno, un'opera artigianale che rappresenta una grande opportunità di scambio culturale per gli studenti. Il treno è da sempre simbolo di viaggio e di progetti che portano verso nuove esperienze e nuove destinazioni. Proprio a questa simbologia si sono ispirati gli allievi specializzati nella tecnologia del legno del liceo Louis Michel di Ruffec, situato a circa 400 km a sud-ovest di Parigi, rispondendo a un progetto della municipalità cittadina di costruzione di un treno decorativo in scala ridotta da utilizzare come arredo urbano e da collocare nella piazza principale in occasione di eventi e ricorrenze. Il liceo Louis Michel immediatamente aderito alla proposta, chiedendo al comune la possibilità di farne un progetto europeo in più larga scala e in particolare un progetto di partenariato Erasmus. Coinvolti nell'iniziativa una dozzina di studenti del liceo artistico Sello di Udine, scelto per la sua eccellenza rappresentativa del territorio, con altrettanti allievi del liceo spagnolo Fernando Aguilar di Cadice. Calcolabile sui 60.000 euro il finanziamento per la costruzione di locomotive e carrozze ferroviarie in legno di riciclo, dai bancali per la movimentazione di merci. Questo nostro treno sia un pretesto per imparare a collaborare, a condividere, a lavorare insieme in un contesto di scambio, di apertura, di tolleranza e di inclusione. I vagoni che si uniranno poi alla fine tra loro diventeranno un simbolo dell'Europa. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio l'intervista a Carlotta Buiatti, docente del liceo francese Louis Michel Ruffet. Nell'annuale assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione per la conservazione della natura di Staranzano è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, organo di amministrazione, per il periodo 2024-2026. Questi i nomi degli eletti: Graziano Benedetti, Maurizio Blasi, Chiara Caligaris, Franco Moselli, Davide Pajor, Nicoletta Perco, che ricoprirà il ruolo di presidente dopo il mandato scaduto di Umberto Sarcinelli, che rimane nel ruolo di consigliere. Nicoletta Perco è laureata in scienze naturali all'Università degli Studi di Trieste e guida naturalistica ed attualmente insegnante presso un istituto medio superiore. Ora lo sport con il calcio. Il gol del friulano Cristante beffa l'Udinese, sconfitta in pieno recupero dalla Roma per 1-2 nella prosecuzione della gara che era stata sospesa per il malore in campo di Indicà quando le squadre erano sull'1-1. Esordio amaro per il neo allenatore Fabio Cannavaro, bianconeri in piena zona retrocessione. Un friulano mette i brividi all'Udinese, quelli della zona retrocessione una realtà dopo il KO nei 18 minuti più recupero con la Roma. Proprio il recupero è stato fatale dopo una gran parata di Svilar su Lucca in posizione regolare. All'ultimo respiro un angolo regalato da Ferreira e sul corner successivo la testa di Brian Cristante che anticipa tutti. Sentiamo Fabio Cannavaro, l'allenatore dell'Udinese. C'è del nervosismo, c'è delle disattenzioni che comunque si pagano. Però io gliel'ho detto che loro devono stare tranquilli, perché se li mando in campo la colpa non è loro se sbagliano, la colpa è mia. E quindi loro sotto questo punto di vista devono cercare di stare sereni, perché è normale che se sei in questa situazione vuol dire che commettiamo tanti errori. Salgono a 20 i punti persi dall'Udinese nei minuti finali, un'enormità, colpa di errori da non ripetere, sottolinea Cannavaro, che pensa di cambiare sistema sui calci piazzati. Però è normale che se c'è una continuità di errori sotto certi punti di vista si può cambiare e fare una marcatura uomo. Penso che se uno vuole limitare i danni vuol dire che magari si può provare anche una situazione diversa, magari una mista, o ce ne sono tante situazioni. Tutto dobbiamo valutare, non possiamo lasciare nulla al caso. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sempre per il calcio inizia con un dispiacere l'avventura dell'Italia al torneo delle nazioni di Gradisca di Sonzo, con l'under 15 azzurra del CT Battisti sconfitta allo stadio Colaussi della Corea del Sud, che si ripresenta per l'occasione a 21 anni dallo storico successo al mondialito. 2-1 il risultato finale per gli asiatici, dopo che l'Italia aveva pareggiato il gol iniziale della Corea. Negli altri match di giornata, Slovenia ed Eirea, valanga su Arabia Saudita ed Emirati, l'Austria ha riacciuffato il Galles. Questi gli incontri di oggi del torneo: Corea del Sud, Romania a Udine in Viale dello Sport alle 18, Arabia Saudita, Repubblica Ceca a Monfalcone in Via Boito alle 18, Emirati Arabi, Macedonia del Nord a Portogruaro alle 18, Galles, Norvegia a Kocak Mountain in Austria alle 17. Gli spettacoli questa sera al Teatro Verdi di Trieste, la prima della Cenerentola, l'opera buffa di Rossini arriva nell'allestimento di un paio di stagioni fa dal Carlo Felice di Genova, che è una rivisitazione della leggendaria messa in scena di Emanuele Luzzati datata 1978. L'orchestra e il coro del Verdi sono guidati da Enrico Calesso, direttore musicale del teatro, mentre nel cast spicca il basso baritono triestino Giorgio Cauduro, nel ruolo che lo ha confermato tra le migliori voci rossiniane dei nostri tempi, quello di Dandini, il cameriere del principe. Accanto a lui l'esperienza di Carlo Lepore nel ruolo di Don Magnifico e un cast di voci giovani ma di grande esperienza sul repertorio. Sipario alle 20, le repliche della Cenerentola andranno avanti fino al 5 maggio. A fine maggio l'opera sarà ripresa al Giovanni da Udine. E da oggi al 28 aprile torna il Festival del Trio, proposto dall'associazione Chamber Music, nel segno di una tradizione che ha reso Trieste capitale mondiale della musica cameristica. Oggi uno dei più amati ensemble cameristici del pianeta, il Trio Orelon, composto dalla violinista Judith Stapf, dal violoncellista Arnau Rovira, Ibas Comte, e dal pianista Marco Sanna, al Magazzino 26 di Porto Vecchio. Dalle 18, con la possibilità di fruire del bus navetta predisposto da Chamber Music in partenza alle 17.30 da Piazza Oberdan, dove gli spettatori saranno riportati a conclusione del concerto. Per il Miella Music Live, appuntamento con l'autore e musicista Massimo Silverio alle 21.30 al Teatro Miella di Trieste. Doppio appuntamento dedicato al 700 veneziano conclude il primo ciclo dei concerti del 2024 dell'Orchestra da Camera di Pordenone, ensemble dell'Associazione Musicale San Marco di Pordenone, che coinvolge anche il Coro San Marco e il Coro di Sant'Antonio Abate di Porcia, in una produzione diretta dal maestro Alberto Gaspardo. Incentrato sulla musica sacra di Vivaldi, il programma è frutto della collaborazione tra le due maestre direttrici Monica Malachin e Cecilia Bassani. Alle 20.45 nell'Abbazia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Regena. A 100 anni dall'eccidio di Via Ghega, a Trieste l'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea del Friuli Venezia Giulia organizza un incontro con Gloria Nemez, tra le principali studiose dell'eccidio, e con Patrick Carlsen, che illustrerà il contesto sociopolitico che fece da cornice all'evento. Introduce e modera Gabriele Mastrolillo alle 17.30 all'antico Caffè San Marco. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il giornale radio, come sempre alle 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.